Quello è una vecchia industria, un capannone industriale, poi riadattato e che è stato reso inagibile dal terremoto. Ci sono ancora i disegni degli scout sopra ed è incredibile pensare a come è nato il gruppo Modena 4. È nato negli anni 70, come diciamo dopo scuola, e dal dopo scuola è nato poi il gruppo scout. Sì, si è trasformato molto. Vivevamo il parco, eravamo in mezzo al parco, lo vivevamo a 360 gradi, la gente ci vedeva, noi vedevamo la gente. Quantità di ragazzi che praticano tanti sport all'aperto e soprattutto nel quartiere Crocette, nel parco, visto ormai che insomma purtroppo i ragazzi giocano sempre meno all'aperto, sicuramente questi quartieri hanno ancora un grande numero di ragazzi che si trovano all'aperto giocando, andando in skateboard, andando con le biciclette, giocando a pallone. E poi ci sono questi due importanti ritrovi da tanti tanti anni, che sono il cricket giocato dai ragazzi del Bangladesh e una specie di pallavolo pakistana che giocano i ragazzi del Pakistan, simile alla nostra, leggermente diversa, ed è un punto di ritrovo, di unione quasi quotidiano anche questo. E poi c'è anche un grande numero di ragazzini che vengono a giocare a pallone, che si ritrovano, ed è molto bello perché è uno dei pochi quartieri di Modena dove ancora tanti tanti ragazzi e ragazze passano il proprio tempo all'aperto a trovarsi, a giocare, a socializzare, cosa che purtroppo in altre parti, in altri quartieri di Modena vediamo sempre meno.